Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio andare a casa. A casa dove? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. A casa dove? La casa dove posso stare in pace. Allora, questa è la mia casa, avrà detto Nicoletta, più o meno così anche la neo first lady Melania Trump. È vero. Qualcuno Bella. Dice la prossima, ormai lo è a tutti gli effetti, non riferendosi però alla Casa Bianca. L'abbiamo letta tutti, no, questa notizia nei giorni scorsi. Melania, almeno per il momento, ha scelto di non trasferirsi per seguire, appunto, di non trasferirsi a Washington seguendo il marito Donald, che a gennaio si insedierà come nuovo presidente, ma vuole restare a New York nell'umile dimora della Trump Tower, tutta circondata d'oro, d'argento e anche un po' di mirra. Mi fa un po' tenerezza, anche un po' pena, povera donna, perché deve seguire Barron, il figlio. Beh, che però è carina, lo fa per il suo bambino, perché deve completare gli studi. Esatto. E quindi rimarrà. Tu non l'avresti fatto come mamma? Non lo so, non lo, guarda. Tu saresti andata alla Casa Bianca. Ma insomma, mi sarebbe piaciuto, ma diamole tempo, esatto. Perché adesso ha tutti i riflettori puntati, esatto, lei magari su di lei, e quindi vuole proteggere un po' il suo bambino, naturalmente. Chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Secondo te cosa avrebbero fatto in una circostanza del genere? Glielo chiediamo. Sicuramente all'800240024 è probabile che vi siate trovate nella condizione, un po' come sta succedendo a Melania, di dividervi tra il marito che sono tante di coppie, sono, che sì, magari la un lavoro l'ha chiamato in un'altra città e i figli piccoli che devono terminare l'anno scolastico. Allora che cosa si fa? Si segue il marito o la moglie, perché si lavora in due, esatto. E i figli, la famiglia si separa, e quindi, o sì, esatto. Ma poi non è solamente una scelta emotiva, educativa, sentimentale, ma è anche economica. Vuoi mettere il prezzo del mantenimento di due case? Certo. È una scelta alla cuore denari, altro che. Però ecco, come donna di cuore, io vorrei chiedervi se c'è una casa che vi è rimasta nel cuore, la casa dei vostri nonni, la casa in cui vivevate quando eravate piccoli, oppure quando siete andati a vivere mentre facevate l'università, la casa che avete abitato quando vi siete sposati. Raccontatecelo un po' alla cuore denari, 349-238-6666, se invece preferite mandarci un messaggio o un WhatsApp. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E allora, qua lancerei subito un altro quizzettone per così chiedere ai nostri ascoltatori se hanno riconosciuto questo film, Wall Street, comunque Michael Douglas, magistrale interpretazione di questo avidissimo operatore, appunto, della borsa americana, Gordon Gekko, Gekko, insomma, a seconda di come lo si voglia pronunciare. Perché abbiamo scomodato subito questo stralcio di film questa mattina? Intanto perché la borsa è super negativa, lo dico già, poi racconterò tutte le motivazioni. Ancora una volta abbiamo avuto questo simpatico commento nel weekend del Financial Times, che in qualche maniera prende anche una posizione sul referendum italiano di questo weekend. Se vincerà il no, dice il prestigioso quotidiano anglosassone, 8 banche faliranno in Italia. Cioè, ci è andata proprio leggera, no, la stampa britannica. Sì. Le banche in questione sono quelle che ormai conosciamo, in crisi da tempo, su tutte Monte dei Paschi, ma ci sono anche Pop Vicenza, Veneto Banca, Carige, e poi le 4 banche risolte un anno fa, Etruria, Cariferrara, Banca Marche e Carichieti. Oggi tutte le banche perdono pesantemente a Milano e trascinano giù tutto il listino, in calo adesso dell'1,8%, meno 0,8% il calo delle altre piazze europee. È una settimana ricca di eventi. Oggi c'è un'audizione di Mario Draghi all'Europarlamento, c'è il vertice OPEC per fare un punto sui tetti produttivi del petrolio, e poi venerdì il dato della disoccupazione americana. E poi oggi è partito molto confuso l'aumento di capitale di Monte dei Paschi, con la richiesta a chi le detiene di conversione in azioni delle obbligazioni a mercati aperti. Stamattina, su questo vorrei veramente sollevare anche un po' di dibattito e polemica, è stato diffuso il prospetto informativo che ha avuto il via libera, appunto, della Consob ad un'operazione che inizia questa conversione alle 14 di oggi pomeriggio. La Consob dice ok ad inizio mattinata a mercati aperti. Insomma, bisognerebbe aprire anche un dibattito su questo. Detto questo, lasciando da parte la borsa, Nicoletta, tutto ciò ci richiama ancora una volta alla complicazione, no, del mondo della finanza. È piuttosto complicatissimo. Esattamente. Tuccio. Allora, che cosa si cerca di fare? Come sai, noi parliamo tante volte di educazione finanziaria qui nel nostro microfono e di tutte quelle iniziative che si fanno nel nostro paese per provare a spingere un po' la divulgazione su questi temi, che però, come dire, molti cittadini non sempre raccolgono come messaggi volentieri, perché la finanza è dura. È dura, ma tu hai anche invitato gli ascoltatori, così rinnoviamo l'invito a segnalarci iniziative sul territorio perché vogliamo costruire questa mappa. Allora, in questa mappa ci inseriamo anche l'appuntamento. Come mi ricordo tutto di te. Ma guarda, d'altronde scusami, tutta l'alimentazione corretta che segui, cioè il tuo cervellino qua va. Allora, nella nostra mappatura segnaliamo allora anche l'evento che c'è oggi pomeriggio a Milano, un convegno organizzato in collaborazione con la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio presso il Centro Congressi ABI, appunto qui nel capoluogo lombardo. Si parte alle 16:30. Il tema è dal cinema alle neuroscienze. Guarda che qua, che tema cuore denari, dove va l'educazione finanziaria. Ce ne parla la professoressa Emanuela Rinaldi, ricercatrice presso l'Università di Udine e curatrice anche del libro Edufin, l'educazione finanziaria come strumento di relazioni pubbliche, ma soprattutto, e poi mi taccio, ricordiamo anche che la professoressa Rinaldi, conoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria, ha scritto fra i suoi tanti testi anche Fiabe e denaro, il valore del risparmio spiegato ai bimbi. Professoressa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Deborah. Allora, anche al cinema si parla spesso e volentieri di finanza. Allora, come mai vi siete inventati anche di portare in un dibattito pubblico questo argomento, dal cinema alle neuroscienze, dove va l'educazione finanziaria? Come avete stabilito questa relazione? Perché volevamo mostrare come nuovi linguaggi, come quello del cinema e diverse discipline, le neuroscienze, la psicologia e la sociologia, possono contribuire a aiutare a sviluppare nuovi progetti di educazione finanziaria più efficaci in funzione dei diversi gruppi a cui essi si rivolgono. La finanza, professoressa Rinaldi, ha provato a sperimentare, lei appunto lo sottolineava, ogni linguaggio utile per far prendere confidenza alle persone con il mondo finanziario, però ancora tutto appare molto complesso appunto per i cittadini e per i risparmiatori. Probabilmente le fiabe sono un po' più comprensibili rispetto a certe trasposizioni cinematografiche. Io faccio per esempio, proprio perché è una questione temporale, all'ultimo film è uscito La Grande Scommessa, che racconta e ricostruisce il fallimento della banca americana Lehman Brothers. In realtà bisogna guardarlo due o tre volte prima di capire bene cos'è successo esattamente a quella banca, e probabilmente è comprensibile per noi che come operatori anche dell'informazione l'abbiamo raccontato in ogni modo nel 2008, ma non è che una prima visione del film chiarisca proprio le idee. Siamo sicuri che il film sia il canale giusto per capire certe dinamiche? Allora, il film da solo forse non basta, nel senso che anch'io, dopo aver visto La Grande Scommessa o anche altri film, ho quella sensazione di non aver capito tutti i diversi passaggi. Quindi l'idea che abbiamo proposto anche ad esempio all'Università di Udine è di affiancare la visione del film con un dibattito di un esperto che possa intervenire a spiegare diversi termini o passaggi. E l'idea anche dell'incontro di stasera è proprio quella di portare la voce di un esperto di finanza come Lucio Martelli, un esperto di finanza sostenibile che è Vicciato, un esperto di matematica, perché anche nella Grande Scommessa si vedono tutta una serie di calcoli, infatti, che vengono fatti dai geni, diciamo, della finanza, e anche una persona che lavora in ambito assicurativo, che possano aiutare a comprendere i diversi passaggi del film. Altrimenti da solo il film ci suscita delle emozioni, ci pone delle interrogativi, ma non sempre poi ci dà delle informazioni utili ad aumentare il nostro livello. Che è per esempio una strada, esatto, la interrompo brutalmente per chiederle in 30 secondi, professoressa Rinaldi, se ci racconta per esempio di questa esperienza portata avanti con successo dall'Università del Michigan, mi raccontava lei, dove esattamente si fanno questi percorsi, la visione di un film anche magari complesso con accanto però qualcuno che te lo sappia un po' decifrare. Esattamente, si intitola Movies for Econ ed è un sito internet dove chiunque sappia leggere l'inglese può trovare sia film che una sintesi della trama e alcuni esercizi che si possono proporre in classe in funzione anche dell'età del pubblico. Senta, ma stasera proiettate qualche film? Dobbiamo venire a questo convegno io e Nicoletta? Proiettiamo George Clooney. Abbiamo invitato anche, ma avevo un impegno, non ho potuto venire. Comunque proiettiamo il trailer di Money Monster. Money Monster, appunto, dove George Clooney interpreta il conduttore di questo programma televisivo. Mi sono sentita molto coinvolta, dedicato agli investimenti, un modo di fare anche molto aggressivo che gli consta anche appunto di essere tenuto in ostaggio appunto da una persona che ha perso molti soldi facendo un investimento suggerito da lui proprio dagli schermi televisivi. Magari se ci sente, sa che andiamo, viene anche lui. Esatto, perché chi sai lo che... sa, con una bella tazzina di caffè di quello buono che pure pubblicizza lui. Grazie professoressa Rinaldi, ci faccia sapere se fate altre iniziative che noi siamo sempre pronte a segnalarne, d'accordo? Volentieri, neanche... Buona giornata, grazie. E voi continuate a segnalarci la casa che vi è rimasta nel cuore. Sono cresciuta a casa di mia nonna, ci scrive Lella, in fondo al giardino. Il riposo pomeridiano ed estate, e anche se ero sola senza altri bambini mi sono sempre divertita molto. Purtroppo adesso è stata venduta. Anche questa, vedi, mannaggia, un messaggio alla cuore denari. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme e per la rassegna stampa di Cuore noi torniamo in Toscana, dove vi ricordate bene la scorsa settimana è partito l'allarme meningite. L'ultima vittima, una donna di 64 anni di Viareggio, mentre, e lo avevamo già segnalato, è fuori pericolo il bambino di 8 anni colpito da meningite di tipo C e ricoverato al Mayer di Firenze. Il bambino era stato vaccinato nel 2009, probabilmente questo ha mitigato un po' l'aggressività della malattia. E proprio da questo dato partiamo oggi, e quindi abbiamo chiesto al professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia all'Università di San Raffaele di Milano e autore di Il vaccino non è un'opinione, di tornare a trovarci, e lui ha accettato il nostro invito. Buongiorno. Grazie professore. Mille, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Professore, il bambino è stato protetto dal vaccino, ma nonostante vaccinato si è ammalato ugualmente. Questo per dire che la notizia può essere letta in due modi differenti, come a dire che il vaccino contro il meningococco C è efficace ma non protettivo al 100%, oppure che va ripetuto. Ci aiuta a fare chiarezza? Certamente, nessun vaccino tra quelli che abbiamo è efficace al 100%. Anche il vaccino, per esempio, contro il morbillo, che è straordinariamente efficace, dà una protezione nel 98% dei pazienti, il che significa che uno su 50 non è protetto. In generale però quello che accade è che le persone che sono state vaccinate, anche se il vaccino perde nel tempo la propria efficacia, per esempio nel caso del vaccino contro la meningite, hanno la malattia in forma più lieve. Come facciamo noi a proteggere le persone che non hanno risposto al vaccino? Vaccinando tutti, perché se noi vacciniamo tutti, diminuiamo la circolazione dell'agente patogeno, e quindi anche chi è stato sfortunato, che non ha risposto al vaccino o che ha perso precocemente la protezione, sarà protetto perché il virus non circola. Quindi noi abbiamo adottato un po' il slogan, un suo messaggio: vaccinare tutti per vaccinare meno. Certamente, perché nel caso della meningite abbiamo un vaccino, meningite da meningococco di tipo C, quello che c'è in Toscana, abbiamo un vaccino di un'efficacia fantastica, e nei paesi dove è stato usato, dove è usato da più tempo in maniera estesa, ha praticamente azzerato i casi, come nel Regno Unito. Pensi che i vaccini contro la meningite utilizzati in Africa hanno fatto passare i casi da 250.000 nel 96 a 80 nel 2015, quindi è uno strumento fantastico. E certamente però bisogna vaccinare tutti. I bambini in questo momento sono vaccinati in gran numero nel nostro paese, gli adolescenti un po' meno, e quindi ha fatto molto bene la regione toscana ad offrire un piano di vaccinazione generale offerto a tutti quanti. Tra l'altro, professore, in Toscana sta circolando un particolare ceppo di meningococco C chiamato ST11, che tra l'altro è uno dei più aggressivi, di solito poco diffuso in Italia. Che cosa sta succedendo? Guardi, purtroppo non tutti i batteri sono uguali. Sa, un conto è un terrorista che ha in mano un coltello, un conto è un terrorista che ha in mano un mitra. Quello che è un mitra è più pericoloso. Questo ceppo di meningococco è particolarmente aggressivo ed è particolarmente capace di superare le nostre difese dando delle sindromi più gravi. Però bisogna dire che il vaccino è efficace anche contro questo ceppo. Quindi il modo che abbiamo per difenderci anche da questo batterio particolarmente cattivo nei nostri confronti è quello di vaccinarci. Allora, abbiamo sottolineato che il vaccino per meningococco C non dura per tutta la vita, quindi va ripetuto. Questo è valido anche per gli altri vaccini, professor Burioni? Non per tutti i vaccini. Quali allora? Facciamo un piccolo distinguo, quali vanno ripetuti e quali no, proprio per dare un'informazione generale. Allora, in generale quelli più importanti da ripetere sono, oltre a quello contro il meningococco, è molto importante quello contro la pertosse, perché noi sappiamo che è un vaccino molto sicuro ma che non dà una immunità a lungo termine, e la pertosse non bisogna solo proteggere noi stessi, ma uno di noi potrebbe trasmetterla a un bambino molto piccolo e fare un danno, quindi ci si vaccina anche per proteggere gli altri. Io mi sono vaccinato quando mia figlia era piccola per proteggere lei, non per proteggere me. Poi ci sono quelli contro il tetano. Quindi lei era stato vaccinato da piccolo e si è vaccinato nuovamente? Certo, perché quando ci vacciniamo contro la pertosse non proteggiamo solo noi stessi, certo, ma proteggiamo le persone che ci sono vicine. Io, siccome faccio il medico, sto in ospedale, potevo magari prendere la pertosse in ospedale e poi portarlo alla mia bimba. E per evitare questo io mi sono vaccinato contro la pertosse, in modo da proteggere lei più che me. Insomma, io sono grande, per cui la pertosse negli adulti è meno grave, invece è molto grave nei bambini piccoli. Questo per ricordare che vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, ma è un atto di responsabilità sociale. Quando noi vacciniamo i nostri figli non difendiamo soltanto loro, ma difendiamo anche le persone adulte. Per esempio in Inghilterra, vaccinando i bambini e gli adolescenti, la malattia è sparita anche in quelli della mia età, cioè nella classe tra i 25 e i 65 anni che il vaccino non l'avevano visto. Quindi oltre alla pertosse, professore? Un altro vaccino che bisogna ripetere è quello contro il tetano, perché anche quello non dà un'immunità infinita. E un altro vaccino che si può ripetere, che si deve ripetere, è quello contro la difterite. Infatti tetano e difterite sono insieme nelle preparazioni. Per quanto riguarda gli altri vaccini, molti danno una protezione a lungo termine, come per esempio quello contro il morbillo, che dà una protezione per tutta la vita. E per altri vaccini, come quello contro la poliomielite, se si continuano a vaccinare tutti quanti i bambini, noi saremo protetti, ma se continua a calare la vaccinazione, noi ci troveremo nella terribile condizione di poter essere soggetti a un'epidemia di poliomielite, perché se malauguratamente qualcuno arrivasse qua e trovasse poche persone vaccinate, il virus potrebbe partire, e allora dovremmo usare un vaccino che usavamo una volta, molto più efficace ma un po' meno sicuro. Una domanda da Andrea da Modena: come faccio a sapere se ho bisogno di un richiamo per un vaccino che perde d'efficacia? È compito dell'ASL avvertirmi, professor Burioni? Non so se le ASL avvertano. In ogni caso, se una persona teme di non essere più protetto, e la cosa migliore è contattare l'ASL, che ha tutte le registrazioni sulle vaccinazioni, e in questo caso, in generale, siccome i vaccini sono veramente innocui, nel dubbio si tende a fare un richiamo, perché non c'è praticamente nessun rischio. Professore, la saluto e la ringrazio, perché devo dare la linea al GR. Ricordo il libro del professore, Il vaccino non è un'opinione, torneremo a parlarne. Grazie, professore. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Ciò? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Beh, io credo che intanto l'alternanza scuola-lavoro produca questo primo esito. I ragazzi conoscono meglio se stessi. Quando hanno fatto questa esperienza hanno più chiaro cosa vorrebbero fare e chi vorrebbero essere. Io credo quindi che bisogna orientarsi a partire da questo dato. Informarsi, fare esperienza, cercare di ascoltare molto le proprie passioni e le proprie aspirazioni e informarsi bene prima di fare una scelta che è importantissima per la propria vita. L'occasione, la prima nella vita, forse la più importante per capire quale può essere il nostro posto in un gruppo, qual è la nostra vocazione a guidarlo o a essere membro del gruppo senza avere vocazione di leadership, insomma capire quale poi sarà la nostra posizione nel lavoro e nella vita. Quindi una generazione di italiani tra pochi anni che avrà superato quella barriera della divisione culturale tra il sapere e il saper fare. Queste erano le voci del ministro del Lavoro Poletti, del ministro dell'Istruzione Giannini, presenti a Verona, a Job Orienta, Salone Nazionale dell'Orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che si è concluso proprio nel corso di questo fine settimana. I ministri hanno sottolineato, lo avete sentito, il valore di quelle modalità formative, come l'alternanza scuola-lavoro, il sistema duale, che coniugano insieme lezioni in aula e esperienze lavorative sul campo, con l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani, di accorciare i tempi, questo è proprio il tema più importante, del loro ingresso nel mercato appunto del lavoro. Noi restiamo su questa linea per l'approfondimento di Denari di oggi. Il tema del lavoro, lo sapete, c'è molto caro a me, Nicoletta. Parliamo in particolar modo di una forma di contratto che dovrebbe essere predisposto proprio per accompagnare i giovani nell'ingresso del mercato del lavoro, che è l'apprendistato. Ne abbiamo parlato tante volte nei nostri programmi e qualche volta abbiamo riscontrato un po' di resistenza da parte delle aziende ad applicarlo, almeno secondo la forma che conoscevamo fino a questo momento. Ecco perché si è pensato di rafforzare, di farlo diventare da sperimentale a strutturale, il percorso appunto dell'alternanza scuola-lavoro, il sistema duale, che è il sistema appunto introdotto dal Jobs Act. E proprio nei giorni scorsi sono stati forniti alcuni dati su come stia andando questa appunto sperimentazione, che ormai, come vi dicevo, è qualcosa di più. Pensate che ci sono state quasi 70.000 ore di orientamento erogate dai 300 centri di formazione professionali e circa 20.000 studenti che in questo anno formativo 2016-2017 hanno iniziato i percorsi di istruzione e formazione professionale in forma duale, appunto con alternanza o apprendistato. Allora, questi numeri. E però, insomma, per chi non conoscesse questa modalità, per le aziende che sono rimaste ancora un po' indietro o anche per le scuole che ancora non conoscono molto bene le dinamiche di tutto questo impianto, noi stamattina abbiamo invitato a raccontarcelo Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro, che saluto. Sottosegretario, buongiorno e grazie di essere con noi stamattina. Benvenuto. Buongiorno a voi. E poi abbiamo Vincenzo Silvestri, che è vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Silvestri, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Allora, sottosegretario Bobba, andiamo un po' subito alla ciccia. Intanto volevo ricordare che negli ultimi anni il tasso di disoccupazione giovanile, non sappiamo quanto merito abbiano anche avuto le iniziative di apprendistato, è diminuito in maniera abbastanza significativa. Ancora per noi troppo alto, al 37%, però è in costante discesa. Siamo ancora molto distanti rispetto alla solita prima della classe europea, la Germania, dove il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni è al 6-8%, ma in Spagna e in Grecia siamo oltre il 42%. Il sostegno economico al sistema duale, appunto per l'apprendistato, è stato confermato nella legge di bilancio, 40 milioni di euro circa, sottosegretario. In più c'è un importante pacchetto di decontribuzioni per le aziende che assumono una volta terminato appunto il percorso di apprendistato in azienda. Avete confermato tutto perché le aziende hanno apprezzato questo bonus? Insomma, qual è lo spirito che anima tutto questo vostro impegno in questo campo? Ma lo spirito è determinato dal voler raggiungere sostanzialmente due risultati importanti. Il primo risultato è quello di abbattere in modo significativo i tassi di abbandono e di dispersione scolastica. Noi abbiamo un 17% a livello nazionale e in particolare negli istituti tecnici professionali arriviamo nei primi due anni a un 38%. Non possiamo permetterci questo spreco, non possiamo permetterci che le persone non trovino un percorso formativo o scolastico che valorizzi i propri talenti e mette insieme conoscenze e competenze. Ecco perché questa spinta forte all'alternanza, questa spinta al sistema duale. Il secondo motivo, la seconda, diciamo, nostra traiettoria è quella di riuscire a creare un sistema che generi una maggiore vicinanza tra lavoro e scuola, tra conoscenze e competenze, e consenta ai giovani di avere un tempo breve tra l'uscita dal percorso formativo e scolastico e l'inserimento lavorativo. Oggi questo tempo è troppo lungo, tant'è che noi siamo tra i paesi che maggiormente hanno persone che non stanno né a scuola né al lavoro, i cosiddetti NEET, no? Abbattere il numero dei NEET e avvicinare i percorsi formativi con quelli di inserimento lavorativo è il secondo grande obiettivo, ed è per questo che si è deciso, e la legge di bilancio che è alla Camera e che dovrà andare al Senato prevede due misure importanti, lei le ricordate: da un lato un rifinanziamento di questa sperimentazione duale anche per tutto il 2017, quindi per i percorsi formativi che inizieranno nel prossimo autunno, e dall'altro lato anche una prima, diciamo, opportunità importante per le aziende che se assumeranno giovani che hanno fatto alternanza, apprendistato formativo o tirocini curricolari in azienda potranno godere di una decontribuzione, durerà 3 anni, cioè per 3 anni si potranno avere 3.250 euro di decontribuzione, vale a dire 9.750 euro sul triennio. Una spinta quindi da un lato alle aziende a accogliere giovani in alternanza, in apprendistato, e dall'altro creare anche un sistema di convenienza in modo che le aziende hanno, diciamo, anche questo canale per formare, selezionare e inserire persone giovani nelle proprie, alle proprie dipendenze. Esatto, il tema è, sottosegretario, come lei sa, che molto spesso le resistenze che sono state manifestate da parte delle imprese sono riconducibili al fatto che fanno fatica naturalmente ad assegnare tutor specifici a questi ragazzi che vogliono chiaramente fare esperienza all'interno del mondo delle imprese. Le chiedevo un commento su questo, se ritiene se queste resistenze appunto siano state superate. Poi c'era un commento anche interessante che faceva la collega Barbara Ganze sul Sole 24 Ore di sabato scorso, proprio a commento della giornata conclusiva a Verona di Job e Orienta, che ricordava come e quali siano state le regioni più attive in Italia nell'applicazione appunto dell'alternanza scuola-lavoro. Ci sono il Molise insieme all'Umbria, l'Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia, Giulia. In termini assoluti il primato è della Lombardia, che ha permesso esperienza in azienda a 105.564 ragazzi e ragazzi, però si riscontra ancora come nel mezzogiorno ci siano difficoltà nell'individuare strutture ospitanti. Le strutture ospitanti che mancano in appello sono le aziende che non danno la loro disponibilità, sottosegretario? Ma guardi, c'è un problema da un lato di ordine culturale, riguarda sia le scuole, le agenzie formative che le aziende, cioè affrontare questo cambiamento che è arrivato, se ne è discusso per tanto tempo, ad un certo punto è arrivato anche con una doppia leva, no? Quella della 107, nell'alternanza nella scuola secondaria, e quella del Job Act con il sistema duale di cui abbiamo parlato. Quindi da un lato c'è un problema di riconversione anche culturale. In secondo luogo c'è però il fatto che per in particolare coloro che andranno in azienda, in alternanza, in forma duale o in apprendistato, abbiamo previsto un contributo che viene dato alle aziende che ospitano questi ragazzi. Italia Lavoro gestirà questo contributo, vale 3.000 euro per i ragazzi in apprendistato e 500 euro per i ragazzi in alternanza. Dunque anche questo può essere un sostegno. In terzo luogo credo che sarà fondamentale, è fondamentale, poi sentiremo il vicepresidente dei consulenti del lavoro, il loro ruolo di mediazione e di accompagnamento, perché l'Italia non è fatta solo da Enel, Eni e grandi imprese, è fatta da tante, tante piccolissime imprese, e lì diventa essenziale il ruolo che i consulenti possono fare per presentare queste misure, aiutare queste piccole o micro aziende a gestirle senza dover sentire questo come un carico, un onere aggiuntivo. Certo. Aggiungo che arrivo proprio adesso, ho incontrato qui gli insegnanti, i ragazzi dell'ITI di Vercelli, la classe di informatica, e gli stessi insegnanti mi hanno detto: pensavamo fosse più difficile, eravamo spaventati, abbiamo collocato tutti i nostri 17 ragazzi in piccole aziende che hanno gestito questi progetti, e anche le aziende adesso ci danno un ritorno positivo. Insomma, superato lo spavento e un po' il pregiudizio, la difficoltà, diciamo, iniziale, e poi il ritorno di questi giovani, e mi hanno detto, c'è una cosa interessante, lo diceva il ministro Poletti, un ritorno positivo anche sui ragazzi che magari prima erano un po' svogliati e adesso hanno trovato nuove motivazioni per studiare, per fare, per identificarsi. Hanno ragione questi ragazzi, sottosegretario, li ossessioniamo sempre non facendo altro che trasmettere messaggi negativi, che non troveranno mai lavoro, che non prenderanno mai la pensione, per cui in realtà con questa esperienza molto concreta in realtà li si mette anche nella condizione di avere uno sguardo positivo su questo mercato del lavoro che cambia completamente, sempre più flessibile. Il posto fisso, il tempo indeterminato sicuramente non è più quello che ci hanno fatto conoscere i nostri genitori, ma insomma ancora qualcosa di buono c'è. Sottosegretario, grazie. Vado a farci raccontare da Silvestri appunto come funziona concretamente questo rapporto fra scuola e impresa. Grazie per essere stato con noi. La lascio agli studenti di Vercelli e vado a Silvestri. Allora Silvestri, contratto di apprendistato, alternanza scuola-lavoro, forma duale, tanti termini, tanti concetti per esprimere tutti la stessa cosa, oppure dobbiamo fare anche un po' di chiarezza in termini di linguaggio? Beh sì, effettivamente adesso gli strumenti in campo sono variegati, quindi forse appunto sarebbe il caso di fare un po' di chiarezza. Da un lato abbiamo la vera e propria alternanza scuola-lavoro, quella di cui parlava il sottosegretario, ed è quella appunto che in questo momento peraltro inserita nel progetto della Buona Scuola, e che prevede appunto per i frequentanti gli ultimi due anni dei licei l'obbligo di avere almeno 400 ore di frequentazione appunto di aziende. Questo si fa attraverso una convenzione tra gli istituti formativi e le aziende, e le aziende a quel punto hanno, diciamo così, la possibilità di accogliere questi giovani per questo numero di ore inserite poi nel progetto formativo. Poi la possibilità di esplicare materialmente l'attività all'interno dell'azienda può realizzarsi anche con uno strumento molto più strutturato rispetto alla semplice, tra virgolette, alternanza scuola-lavoro, che è quella dell'apprendistato. Quindi il giovane può tramutare questa esperienza di alternanza in un contratto più strutturato, appunto come quello dell'apprendistato, e quando parliamo di apprendistato parliamo di un contratto che si suddivide poi a sua volta in tre tipologie. Il contratto tipico che sposa l'alternanza, che quindi che permette poi di mettere in concreto l'alternanza scuola-lavoro, è il cosiddetto contratto di apprendistato di primo livello, che proprio è quello che permette ai ragazzi che stanno frequentando ancora il corso di studi, che quindi devono acquisire il diploma, di contemporaneamente essere assunti in apprendistato di primo livello dalle aziende. Quindi si arriva dall'alternanza scuola-lavoro per poter avere poi l'opportunità di essere assunti in azienda. Una vera assunzione, esatto. Mentre l'alternanza in sé per sé non costituisce un rapporto di lavoro, ma è la frequentazione dell'azienda attraverso questo progetto formativo della frequenza di un'azienda in costanza di attività formativa. Il contratto di apprendistato è qualcosa di più, perché è un'assunzione a tutti gli effetti, e questo si può fare attraverso il contratto di primo livello, ma non solo, si può fare anche col contratto di apprendistato di terzo livello, che invece è sempre per il conseguimento di un diploma scolastico, solo che però di formazione superiore. Mm-hmm. Per esempio possiamo immaginare all'interno dei percorsi universitari, all'interno dei dottorati di ricerca, e quindi utilizzare questo strumento di apprendistato di alta formazione per conseguire contemporaneamente un diploma di alta formazione e nello stesso tempo frequentare l'azienda. Poi c'è il secondo livello di contratto di apprendistato. Mi chiedo un po' di sintesi, Silvestri, perché tra un po' chiudiamo. Quindi secondo livello? Il contratto di apprendistato professionalizzante, che è quello invece che è sganciato dalla contemporanea dalla frequenza scuola di percorsi formativi, è direttamente di mestiere, perché può essere assunto direttamente tra azienda e lavoratore. Qual è quello che le aziende, secondo la sua esperienza, hanno accolto appunto più favorevolmente, Silvestri? E poi le chiedo, lei che fa questo lavoro proprio di consulenza evidentemente alle aziende che devono districarsi nella giungla della normativa sul lavoro, che è molto complicata, sulle resistenze di cui discutevamo poco fa con il sottosegretario Bobba, come prova lei a convincerle del fatto che molto spesso quelle che possono essere visti come degli ostacoli in realtà poi alla fine possono rappresentare delle opportunità per tutti, non solo per i giovani ma anche per l'azienda stessa? Ma guardi, allora, sicuramente il contratto d'apprendistato, per rispondere alla prima domanda, più utilizzato dalle aziende è il secondo livello, cioè il contratto d'apprendistato professionalizzante, perché è quello che dal punto di vista delle procedure informali, delle procedure, diciamo, burocratiche, quindi perché in tutto questo non abbiamo detto che chiaramente poi tutto deve anche essere declinato con le normative di carattere regionale. Quindi in buona sostanza è quello che sicuramente l'apprendistato professionalizzante è quello più, diciamo, elastico, più snello in termini di utilizzo. Per quanto riguarda poi, come diceva giustamente il Ministro, è un problema culturale. Oggi le aziende non sono attrezzate dal punto di vista culturale a far frequentare i giovani privi di assoluta esperienza delle proprie aziende. Non dimentichiamoci peraltro che le aziende oggi hanno un grosso fardello, che è quello che ovviamente con la legge Fornero c'è una difficoltà a svecchiare il personale all'interno delle aziende. Speriamo che anche i provvedimenti che il governo ha posto in essere con gli anticipi pensionistici e questa flessibilità che si vuole introdurre nel rapporto di lavoro possa permettere anche uno svecchiamento, e quindi possa permettere anche aiutare le aziende in questo ricambio. Silvestri, ancora un minutino e mezzo ce l'abbiamo. Come funziona la retribuzione di questi ragazzi che vengono assunti secondo il criterio appunto dell'apprendistato? Ma in pratica anche qui, per quanto riguarda l'apprendistato, bisogna fare riferimento ai contratti collettivi, perché è la contrattazione collettiva quella che sostanzialmente gestisce e disciplina l'aspetto retributivo. Il vantaggio è che per quanto attiene soprattutto il primo livello, normalmente c'è un inquadramento che è di due livelli inferiori rispetto alla qualifica che poi si dovrà conseguire, o addirittura c'è anche la possibilità di una percentualizzazione poi in base agli anni, quindi è chiaro che va crescendo in base al numero degli anni. Il vantaggio peraltro del primo livello, quello appunto che prevede la possibilità di conseguire il diploma in costanza di rapporto di lavoro, è che le ore di formazione fatte all'esterno, quindi le ore obbligatorie che il ragazzo dovrà svolgere con l'istituzione formativa, non vengono retribuite, mentre quelle che invece devono essere fatte come attività formativa all'interno dell'azienda verranno pagate soltanto al 10%. Quindi in buona sostanza l'autore di lavoro si ritrova con un vantaggio sul piano retributivo che evidentemente complessivamente è una retribuzione molto più bassa rispetto a un livello ordinario, e poi i vantaggi di carattere contributivo e fiscale che sicuramente fanno costare il lavoratore dipendente complessivamente ovviamente molto meno rispetto a un dipendente. Le faccio sentire la testimonianza di un insegnante, Silvestri, per concludere in bellezza questo nostro blocco. Antonella, benvenuta. Buongiorno. Io volevo appunto dire che effettivamente questo inserimento a tutto tondo del progetto di alternanza scuola-lavoro nelle scuole di indirizzo professionale, che già c'era prima, però aveva una valenza meno importante, sta funzionando, perché io noto che i miei alunni al termine di questa esperienza comunque vengono collocati dentro le aziende. Addirittura alcuni chiedono la presenza degli alunni d'estate per poter continuare il progetto. Certo, perché l'azienda non si carica del tutto ovviamente della formazione appunto dei nuovi entrati, c'è l'apporto della scuola, c'è il sostegno finanziario del ministero, per cui è chiaro che qua si lavora in team, no? Antonella, e quindi è evidente il beneficio è chiaro. Quindi si spendono tantissimo per questo tipo di lavoro, perché funzioni, perché il nostro obiettivo è che lo studente possa certamente anche continuare gli studi all'università, perché il diploma è statale, certo. Quindi possono accedere anche alle università, però per prima cosa ovviamente a noi preme che il ragazzo possa trovare una collocazione. Infatti. O dentro la scuola ancora o nel mondo del lavoro. Le dico solo che quest'anno i nostri diplomati del 2016 hanno trovato tutti posto di lavoro, e addirittura c'erano delle aziende che ne cercavano, altri non c'erano perché alcuni già collocati, altri nel mondo dell'università. Grazie Antonella per la sua questa è una bella notizia. Ecco, finalmente. Evviva. Per tutti anche coloro per che vogliono denigrare sempre tutto e tutti, noi invece siamo dalla parte di coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno delle situazioni. Grazie molte Antonella, un in bocca al lupo a tutti i suoi studenti, grazie molte anche a Vincenzo Silvestri, vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Torneremo senz'altro su queste notizie. E intanto che mi fa venire in mente che ieri sono andata a messa con mia mamma a Torino, e in conclusione della predica il sacerdote ha citato questa frase di Dostoevskij. Bella. Non mi aspettavo, ma che me la sono proprio, come dici tu, impressa nella pietra, perché che il vostro male è non capire quanto siete belli. E allora ho pensato di darla anche ai nostri ascoltatori, perché aiuta tutti. E ecco. Quindi andiamo ai mercati. Chissà se non capiscono quanto sono belli. Mercati, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. E dopo aver cercato e parlato di opportunità di lavoro, adesso noi cerchiamo un uomo, una donna, un ascoltatore di Radio 24, sì, che... con la pressione nei valori ottimali. Sembra un po' una ricerca bizzarra. Comunque, se volete candidarvi, 800 24 00 24. E certo, sulla parola ci fidiamo. Ho così. Il tradizionale 80-110, diciamo, ecco la, la, la. Ma quando io ti dico che tu sei perfetta, sto bene, ringraziando Dio, vedi? Mille volte. Allora, perché abbiamo fatto questa richiesta e ci siamo fatti un po' i fatti vostri? Perché ho letto di un recente studio di ricercatori americani che è pubblicato su Lancet, che è una rivista scientifica molto prestigiosa, che sottolinea che il numero delle persone che hanno problemi con la pressione alta sia in aumento costante. E questo è un aumento che ci preoccupa molto. Un dato? Allora, negli ultimi 40 anni si è passato da 500 milioni ad oltre un miliardo di persone ipertese, cioè con dei valori considerati superiori a quelli ottimali di riferimento. Direi che questa notizia potrebbe anche un po' farci alzare la pressione. Chissà se la fa sbalzare in su al professor Claudio Borghi, che è in linea con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. No, non me la fa balzare affatto, perché erano dati che erano abbastanza noti dal passato, noi ce li stavamo aspettando, per quello che io trovo molto meritoria la vostra azione di sensibilizzazione sull'ipertensione. Intanto io dico professor Borghi, ma gli ascoltatori fedeli di Radio 24 ben la conoscono, ma voglio ricordare che è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione SIA, che è la Società Italiana dell'Ipertensione. Allora, professore, noi stiamo cercando una persona che ha la pressione nella norma. Allora, diamo Deborah, naturalmente, gli anticipati, perché ormai Deborah è diventata, oltre che la donna di cuore, di denari, anche un po' la donna di cuore. Però ci dica subito i valori e ci aiuti un po' a capire se questi valori valgono per tutti, un po' come quegli abiti taglia unica, oppure ci sono delle indicazioni, delle precisazioni da fare. Grazie. Per la verità, i valori normali di pressione sono inferiori a 140 di massima e a 90 di... In generale valgono per la maggior parte delle persone, le ultime linee guida li hanno resi molto uniformi. Ci sono due categorie nelle quali non valgono: i pazienti anziani, nei quali possiamo tollerare un valore di normalità della pressione massima fino a 150, e i bambini, nei quali si riscontra un aumento della pressione arteriosa che viene calcolato sulla base di una distribuzione statistica dei loro valori, quelle che si chiamano percentili, per cui per i bambini i valori di normalità sono molto più bassi, diciamo inferiori a 120 di massima. Allora, professore, intanto io chiederei alla regia di richiamare il professor Borghi, sì, che mette giù, perché così noi lo richiamiamo ottimale, e così anticipo sentirlo, che adesso diamo un po' un quadro generale, i valori, e cerchiamo anche di fare chiarezza su alcuni luoghi comuni sulla pressione alta, e poi passeremo in rassegna degli studi che hanno stilato un elenco di alcuni alimenti che ci aiutano o dovrebbero aiutare a tenere sotto controllo la pressione. Intanto voi che fate? 800 24 00 24, i messaggi come sempre al 349 238 6666. C'è qualcuno di voi che magari mettendosi un po' a dieta, aiutandosi con l'attività fisica, è riuscito a rientrare dalla zona grigia e quindi ha una pressione da medaglia? Chiamateci e scriveteci. Intanto professor Borghi è di nuovo con noi, vero? Certo. Professore, è uno dei nemici più subdoli della nostra salute, certo, ritenuto responsabile dell'insorgenza di molte malattie, in particolare di quelle cardiovascolari. Che sia un fattore di rischio ormai l'abbiamo imparato, e qui anche che sia quindi da tenere sotto controllo. Ma qui arriva il bello, perché leggendo questi dati ci suona un campanello d'allarme della serie. Se ne parla spesso di pressione e di ipertensione, ma evidentemente qualcosa ancora non funziona se i numeri continuano ad aumentare. Come mai? E i numeri continuano ad aumentare un po' per l'invecchiamento progressivo della popolazione, perché lei sa molto bene che la percentuale di ipertesi cresce con gli anni e quindi invecchiando la popolazione aumenta la percentuale. Però se legge quei dati, lei lo avrà fatto con grande attenzione, noterà che sono dati mondiali che dimostrano come l'incremento dell'ipertensione sia avvenuta soprattutto in paesi, diciamo, in via di sviluppo, nei quali una volta non esistevano condizioni di vita tali da promuovere la genetica che faceva aumentare l'ipertensione. Quindi il miglioramento delle condizioni di vita fatalmente trascina con sé alcuni aspetti di tipo dietetico che possono far aumentare la pressione. E l'aumento maggiore della percentuale di ipertesi è proprio attesa in questi famosi paesi in via di sviluppo. Allora, professor Borghi, sulla pressione alta, quindi sull'ipertensione, ci sono ancora molti luoghi comuni e sono proprio questi che a volte ci portano un po' a sottovalutare il problema, a gestirlo in modo non adeguato. Proviamo allora a passare in rassegne più comuni, così lei ci dà un'informazione e ci auguriamo anche un'indicazione. Volentieri, ad esempio, se la pressione sale è colpa degli anni, lei in pratica l'ha già anticipato, ma fino a che punto, professore? No, la pressione aumenta con l'età, ma non è assolutamente automatico che diventi così alta da essere un problema dal punto di vista clinico. Quindi direi che comunque la percentuale di ipertesi aumenta in maniera considerevole oltre i 65 anni. Sono le preoccupazioni e lo stress a farmi aumentare la pressione. Sono agitato e quindi ecco che la mia pressione, pam, spara in alto. Professor Borghi, me la passa o me la boccia? Gliela passo parzialmente. Le preoccupazioni e lo stress. Perché mi vuole bene? Cioè, assolutamente. Se no sarebbe bocciato completamente. No, c'è un fondo di verità in quello che dici. La pressione tende a fare ad aumentare i valori di pressione. Ciò significa che se io sono iperteso avrò più probabilità di una instabilità dei miei valori di pressione se sono stressato, ma non è il meccanismo di base che fa aumentare la pressione. È un marchio di famiglia. Mia mamma era ipertesa, mio papà, lo zio. È una sorta di marchio di fabbrica. Vero o falso? Verissimo, questo glielo passo al 100%, c'è una base genetica che ancora non è stata identificata come singolo gene, più geni contribuiscono alla stessa cosa, ma sicuramente la familiarità per ipertensione è il fattore di rischio principale per diventare ipertesi. E chiudiamo, è colpa della menopausa, professor Borghi, così molte donne raccontano. Anche questo gliela passo, perché in generale nell'età fertile i valori di pressione restano più bassi perché gli estrogeni hanno un effetto protettivo. Dopo la menopausa i valori di pressione tendono ad aumentare e spesso l'ipertensione si manifesta dopo la menopausa, è vero. Allora, poi c'è sempre un problema grande, il sommerso, c'è chi è iperteso non sa di esserlo. Vogliamo anche rivolgersi a queste persone, perché se è vero che l'ipertensione è silenziosa, è altrettanto vero che se non diagnosticata, lo ripetiamo tutte le volte, e non curata, procura danni molto seri, a farne le spese il cuore, ma anche i reni. In questo modo si dice che faccia danno d'organo, è corretto, professore? Professore? È correttissimo. Il problema principale dell'ipertensione non è tanto l'aumento della pressione come c'è, quanto il danno che l'aumento della pressione genera sugli organi bersaglio. Quindi è fondamentale riconoscerla, misurarsela sistematicamente e una volta che la si è trovata alta avere cura anche del proprio cuore, dei propri reni, attraverso una serie di esami semplicissimi e assolutamente economici. Professore, quindi uomo avvisato, mezzo salvato alla grandissima. Grazie, come sempre. Grazie professor Borghi, ci sentiamo presto e tra poco, come anticipato, parleremo anche di alimentazione. Vi aspetto subito dopo le informazioni sul traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Cuore e denari. Contare fino a 10. Eccoci tornati insieme, mancano poco meno di 10 minuti alla fine di questa puntata e sono circa 10 i cibi alleati preziosi nella lotta all'ipertensione. L'elenco è stato stilato dai ricercatori americani e in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Massimo Gualersi. Buongiorno. Cardiologo, buongiorno a tutti, esperto voi di prevenzione e riabilitazione. Non ho capito perché ho legato americani col dottor Gualersi, ma è tanto per correre. Perché lui dottor ha Gualersi, super spirito internazionale. Intanto, dato che ho anticipato che parleremo di alcuni alimenti che sono stati considerati e oggetto di ricerche che sembrano avere delle proprietà molto utili per tenere sotto controllo la pressione, ci scrive Massimo, 49 anni. aveva la pressione alta, 150 su 95, sono riuscita ad abbassarla a 125-75 solo con una dieta, e ce la racconta questa dieta: niente carne di maiale, niente latte, non mangiare carboidrati a cena. Promosso? La pressione è scesa sicuramente, dottore. Sì, è promosso, anche se ci tengo a precisare subito una cosa: tutte le persone che iniziano un pochino a prendersi cura di se stessi guardando l'alimentazione, quindi mettendo un po' di paletti, hanno al netto della dieta che fanno un effetto benefico sia sulla pressione che sul peso, più difficilmente sul colesterolo, ma la pressione risponde molto bene a delle norme igienico-comportamentali e dietetiche, e dopo entreremo magari nel dettaglio di alcuni alimenti, ma diciamo, certo, in riga, diciamo, lo facciamo molto subito perché il tempo corre. Iniziamo dai cereali, e quindi parliamo di frumento, riso, mais, avena, segale, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Allora scegliamo, diversifichiamoli. Oh, ti piace? Eh, utilizziamoli un po' a rotazione perché ognuno ha proprietà e caratteristiche specifiche. Dottor Gualerzi, le passo subito la parola. Ce n'è qualcuno più indicato di altri? Ma diciamo che in realtà ce ne sarebbe uno per ogni giorno della settimana, e anche un pochino dal punto di vista stagionale. Poi la medicina cinese, ad esempio, ci mette anche, ci dice che alcuni cereali sono da preferire in alcune stagioni piuttosto che, certo, in altre. Però diciamo che oggi la ricerca scientifica si è molto interessata soprattutto dell'avena, e questa sostanza, diciamo questo cereale, contiene un'alta quantità di fibre solubili che abbassano sensibilmente i livelli di colesterolo cattivo. Il colesterolo cattivo, quello più propriamente chiamato LDL, è quello che viene trasportato dal fegato alle arterie e si deposita nelle arterie irrigidendole, quindi un'arteria rigida è un'arteria che farà avere una pressione più alta, soprattutto una pressione differenziale più alta, cioè alter la massima e tenderà a tenere costante la minima, che oggi come oggi è un fattore di rischio molto importante dal punto di vista cardiovascolare. Quindi mangiare più avena aiuta a ridurre un po' la pressione massima, che è quella tra l'altro più dannosa. Quindi prendiamo due piccioni con una fava. Sì. Con l'avena. Nell'elenco degli alimenti che aiutano a tenere sotto controllo la pressione ci sono naturalmente i legumi, ma attenzione, uno in particolare cattura la nostra attenzione: il lupino, che è un legume che è stato un po' dimenticato e che adesso torna di gran moda, anche perché la ricerca dimostra che ha tante proprietà. Se ne è parlato anche, ti ricordi, sì, quando noi siamo andate all'Expo, sì, in sì, più occasioni, c'era proprio un convegno tutto dedicato a questo lupino, che un tempo erano quelli classici snack da passeggio nelle feste di paese. Assomiglia un po' come sapore a quello dei ceci, ma sembra che sia un legume davvero straordinario. Dottor Gualerzi, lupino, sì, ci piacciono o no? Ci piace molto. Quello che mangiavamo un po' di tempo fa era anche molto salato, quindi in realtà io lo sapevo che sì. andava un po' a vanificare l'effetto protettivo. Sembra, però era buonissimo, sì, era buonissimo, era buonissimo, lupino salato e magnifico aperitivo. E forse era comunque al netto più sano degli snack moderni, ecco. E detto questo, diciamo che il lupino, così come le altre diciamo proteine di origine vegetale, per avere una particolare sequenza peptidica, quindi degli aminoacidi messi insieme, che vanno a stimolare, diciamo, la produzione di quelle sostanze vasodilatanti. Quindi obiettivamente i lupini potrebbero, e sono adesso presi in seria considerazione anche nella produzione di integratori che combattono l'ipertensione, perché hanno questa particolare capacità di abbassare la pressione vasodilatando. Quindi ancora una volta il target sono le arterie, che diventando più elastiche gestiscono meglio la nostra pressione, quindi abbassano la pressione. E i lupini, un po' come l'avena, sono efficaci anche contro il colesterolo, vero? Assolutamente. Nell'elenco troviamo anche la barbabietola rossa. Sì, questa diciamo che è un po' l'ultima arrivata, perché appena anche recente questo studio è stato condotto con 200 grammi al giorno di succo di barbabietole e ha visto le persone che lo assumevano appunto costantemente un abbassamento di 10 mm di mercurio della propria pressione, che è un valore molto importante, e questo sembrerebbe giustificato dal fatto che bastano 200 grammi di succo di barbabietola al giorno per avere nell'interno di questo succo circa 0,2 grammi di nitrato alimentare. Cos'è il nitrato? È una sostanza che poi nel nostro corpo si trasforma in nitrito, che non è il verso del cavallo, ma è una sostanza anche questa. Nitrato, nitrito, nitruto. Ecco, infatti, che è una sostanza che agisce sull'endotelio, cioè su quelle cellule che rivestono le arterie, andando a portargli salute, ma soprattutto vasodilatando. Il nitrato è quello che si dà anche tendenzialmente ai malati di cuore per dilatare le coronarie, per far arrivare più sangue, ma posto in tutte le arterie del nostro corpo, abbassa la pressione dilatando le arterie stesse. Facciamo una piccola pausa con Pierangelo, che ci chiama da Cremona. Pierangelo, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, sì. Bene, forte e chiaro. Vado. Allora, complimenti per la trasmissione, vi sento sempre. Beh, questa volta sono riuscito a parlare, riesco a parlare con voi. Grazie. Io faccio, ho 57 anni, la pressione è 120 la massima, 60 la minima, 44 battiti, colesterolo 140, glicemia a posto. Sì. La cartella, faccio la cartella molto, clinica. Lavoro tanto, il sabato sera vado anche a ballare. Bravo. E volevo dire che non c'è nessun alimento che fa male è il troppo. Allora, bisogna mangiare di tutto, un po' di tutto, e non andare a cercare e pensare che ci siano gli integratori. Non c'è l'elemento magico. Magiche che ci tengono a posto. Pierangelo dice non c'è l'alimento magico, ma ci dice lavoro tanto e vado anche a ballare. Quindi sottolinea il movimento. Posso, le leggo anche un messaggio. Il Carcadè può abbassare la pressione? Ci scrive un ascoltatore. No, non ci sono degli studi, almeno non ci sono degli studi scientifici come quello che abbiamo appena letto, come probabilmente se uno si fissa sul fatto di bere molto, essendo una sostanza molto rinfrescante, possibile che diluendo il sangue, quindi eliminando anche il sale, possa avere un effetto, almeno se uno lo prova. Adesso degli studi scientifici non che io conosco non ce ne sono. È diventato un po' come il prezzemolo, per anni lo abbiamo mangiato con qualche senso di colpa, adesso invece forti delle conoscenze sulle sue proprietà nutrizionali nutraceutiche lo consumiamo non solo per piacere, ma anche per sfruttarne, come a dire, le virtù salutari. Parlo del cioccolato fondente. Sì, anche qui dobbiamo stare molto attenti. Il cioccolato fa parte di quelle sostanze come il tè, come il caffè, inteso nelle sostanze, o anche come il vino, che contengono delle sostanze antiossidanti chiamate catechine. Queste sostanze hanno delle azioni molto importanti sul nostro organismo, quindi tolgono l'infiammazione, quindi migliorano molte funzioni. Sicuramente la cioccolata è stato, il cacao diciamo, almeno il 70% senza zuccheri, è stato studiato a lungo come anche in meta-analisi molto importante da alcuni ricercatori come Corti italiano, che ha fatto una meta-analisi del 2009 e ha visto che l'assunzione di 40 grammi di cacao al giorno può abbassare la pressione, anche qui siamo attorno ai 7-10 mm di mercurio al giorno, quindi dei livelli molto buoni, teniamo sempre conto sulla qualità, quindi come diceva il radioascoltatore prima, forse dobbiamo più che parlare di alimento anche delle qualità degli alimenti, perché se parliamo di cioccolato rischiamo di confondere, perché in molti alimenti oggi troviamo cioccolato, ma stiamo parlando di cacao, almeno al 70%, senza zuccheri e senza troppi grassi di origine vegetale aggiunti. Così i nostri ascoltatori hanno tutte le indicazioni per riconoscere i messaggi. Chiudiamo con, scelga lei, dottor Gualerzi, un alimento che le piace in modo particolare, particolarmente interessante, che vuole suggerire e chiudere in bellezza la nostra puntata. Ma secondo me se si parla di un alimento non possiamo non dire niente sull'aglio. L'aglio è un po' anche nella nostra cultura, mangia aglio che stai bene un po' per tutto. Obiettivamente l'aglio ha tanti studi sulla dilatazione delle arterie come antitrombotico, quindi mangiare l'aglio crudo e quindi masticare una porzione di aglio aiuta molto ad abbassare la pressione e a ridurre anche a tenere lontane forse le persone e comunque vampiri, le streghe come noi. E attenzione a quello che viene dalla Cina. Torniamo domani, grazie.